Ve lo ricordate? Era la California, tutti volevano andarci, volevano prendere un Greyhound e girarla in autobus, perché? Beh, era bella, solare, permissiva, libera, era il centro dell'originalità e per questo fonte di ispirazione per un sacco di artisti. Se volete farvene un'idea, gettate un occhio su Wikipedia, List of Songs About California, non ce la farete perché c'è una lista interminabile, però un gruppo assunse su di sé il compito di simboleggiarle tutte, erano in quattro. C'era Mama Cass Elliot, Danny Doherty, la bellissima Michelle Gilliam e suo marito, il cantautore John Phillips, si chiamavano The Mamas and Papas, e scrissero un inno immortale che consacrerà quella terra come nuova patria di hippies e sognatori. Si chiamava California. Dreaming, ricordate, eh? Grigio su, foglie gialle giù, e in Italia la California non la cercavamo così, fuggendo via dall'autunno. Era l'epoca delle cover di successo e Dick Dick proposero la versione di questo brano di fama internazionale, Dei Mamas and Papas per l'appunto. Ma torniamo ai nostri giorni. Innanzitutto, per entrare in contatto con noi, 342 41 41 762. Ciao Alessandro dalla provincia di Recco, grazie, goditi il lago vicino. E torniamo ai nostri giorni, dicevamo, con Pompei Bastille. Close your eyes. Oh, tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness above. But if you close your eyes, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from us. But if you close your eyes, siete sempre nella Zap Records e proprio qui davanti agli occhi la copertina ancora di No Nukes. Erano mobilitati tutti gli artisti, ma oggi la Corea del Nord lancia missili davanti al Mar del Giappone e non si mobilita più nessuno. Come mai? Comunque, associata alla voglia di California di cui parlavamo prima della recentissima ubriacatura tecnologica, c'è stata una voglia di ritorno all'agreste, alla vita bucolica, magari perché non sapevamo ancora molto bene quanto fosse dura la vita nei campi. È splendida, ma anche molto dura. Ecco, nel 66 un tipo si presentò al Festival di Sanremo per la seconda volta e cantò una canzone semplice, malinconica e per questo molto efficace, tanto che fu proprio identificato con quel pezzo e divenne il figlio di quella canzone. Il brano poi fu tradotto in tantissime lingue, in inglese, tedesco, ceco, svedese, spagnolo, francese e anche la grande Cesaria Evora ne fece una versione in lingua di Capoverde. Ed era il tempo in cui le nostre canzoni venivano tradotte in tutto il mondo. C'è sempre qualcosa da rimpiangere nell'adolescenza, eh? Quando ascolterete questo pezzo, mentre lo ascoltate, pensateci un po'. Non dite l'età, perché sarebbe banale, anche perché poi se ci pensiamo per davvero non eravamo sempre felici nell'età dell'adolescenza quando eravamo giovani. Oppure sì, provate a pensarci. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare

Siete naturalmente nella Zap Records di Radio Monte Carlo, 342-4141-762 per entrare in contatto con noi. Non dico quanto, ma è passato tanto, dice Franco, e tanto passerà ancora. Franco, Stefano di Verona, sono lieto che ti aggradi la nostra musica, ti piace? Sì, ti aggrada, sono contento. Allora, andiamo di 20 in 20, erano i Duran Duran prima e Adriano Celentano. Riscopriamo chicche, anticipiamo gusti perché siamo avanti, quindi abbiamo anticipato pure la festa della donna. Perché? Perché domani la programmazione di Radio Monte Carlo sarà dedicata alle donne e naturalmente voi sarete protagoniste. Inviateci allora un SMS con il vostro nome e la canzone che vorreste, insomma, dedicare però a chi? Alla donna più importante della vostra vita. Donne e donne, uomini e uomini, bambini e donne, insomma, ma solo alla donna più importante della vostra vita. E così saremo in diretta insieme, eh? Così ce la palleggiamo questa donna importante. Oggi per il brano Avanti però voglio parlarvi di un femminista convinto, rimaniamo in tema. Ian Astbury, leader dei Cult, cresciuto in una famiglia matriarcale con una madre e sette sorelle, sette, che dunque parla con gran rispetto dell'universo femminile e si è anche battuto perché le donne vedessero riconosciute ovunque i loro diritti musicalmente, e anche la cultura dei nativi d'America diventerà un punto di riferimento per i suoi testi. E questo Rain non si limita a evocare il potere purificatorio della pioggia, ma la rende addirittura antropomorfa, diventa una donna affascinante, sensuale e cult con Rain. Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Che sia logico scoprire in mezzo al traffico di amarsi in modo cosmico, ma un attimo che poi due metri dopo l'amore sembra consumato già. Lo so che non ti piacciono le situazioni in bilico, le cose che succedono e succedono, lo so, ma che discorsi sei tu che butti sempre tutto giù. Ma che discorsi, nel dubbio che poi non funzioni più, così fai tu. E poi con quello che succede in una storia come questa, non è che ti puoi chiedere se sia la strada giusta ad ogni angolo, ogni semaforo che c'è. Lo so che non coincidono le previsioni e l'esito, le obiezioni in merito, le immagino però, perché fermarsi? In radio c'è anche un pezzo che mi va. Ma che discorsi, scusa, la strada forse è chiusa, non si sa da dove viene, tanto meno dove va. Ci siamo persi, ma se tanto non hai fretta, amore aspetta. Gira di qua, gira di qua, gira. Con quello che succede in una vita come questa, forse è meglio se la strada non è proprio quella giusta. Sì, con quello che succede, quello che si vede intorno, non dobbiamo riconoscere la strada del ritorno. Ad ogni angolo, ogni semaforo che c'è. E dopo i Calter, il mio amico Daniele Silvestri, è arrivato il momento del brano Fucsia, ma prima devo leggere alcune sms. Ciao Zap da Andrea da Carrara, mi saluti mio fratello Nicola? No, posso dirti no, ma sì che te lo saluto, te l'ho detto, quindi. Poi però c'è una cosa curiosa: a Mariella, mia sposa da 21 anni e mi supporta o sopporta Federico da Saronno, però dobbiamo chiarire, è la tua sposa, ti sposa da 21 anni oppure ti supporta o ti sopporta? Dici qualcosa, Federico, perché siamo nel dubbio. Però prima devo presentarvi una mia amica. Allora, devo anticipare una cosa: finalmente è qua, perché ho un giubbotto suo da 20 anni che voglio darglielo. Rosaria Renna. Ciao, eccomi, Rosaria. Ciao Zap, buon pomeriggio a tutti. Che allora, bello, che bello essere qui. Ieri era già calato il sole. Sì. Adesso invece c'è questo sole meraviglioso dal quale, insomma, con il quale illuminiamo tutti quelli all'ascolto di Radio Monte Carlo. Hai visto? Poi sono giornate rare così a Milano, c'è un cielo. Non mi dire così, che terzo. Io sono Serrona, che vengo dal sud, non dirmi così, dimmi, no, che è sempre così. Te l'abbiamo apparecchiata e poi domani ti facciamo vedere com'è veramente. Ok, vabbè, esatto. Grazie per questa illusione. Senti, ma hai scivolato via su questo giubbotto che invece ti ho tenuto con cura, cioè il famoso giubbotto di Renna. Dai, lascia in pace le mie sorelle, le mie zie, le mie parenti. Esatto, cultura ecologica. Ma senti, ti sei entrata nella nostra tribù, che bello. Sì. E dici, sì, che farai. Lo devo dire? No, certo, dai, manteniamo un pochino. Ah, allora, manteniamo il segreto. Per tutta la settimana, diciamo, sarò un po' qui, un po' lì, per conoscere. Ho tenuto il tuo giubbotto per anni, vuoi non mantenere il segreto? Vuoi non aspettare qualche giorno? Perfetto. Allora, senti, parleremo un po' di noi e delle tue esperienze multiformi e ti faremo fare qualcosa anche in diretta che non hai mai fatto. Oh, mamma quindi mia, preparati, lo sapevo che gli esami, come diceva Edoardo d'accordo, non finiscono mai. Non finiscono. E se siete giù, vi daremo un motivo per rialzarvi. Come dice una mia amica che ci prova, provateci sempre. Sempre, perché è molto meglio avere rimorsi che rimpianti. Lei, beh, lei lo ha fatto. E poi chiederò anche alla mia amica Rosaria se è vero che è meglio avere rimorsi che rimpianti. Lei dice di sì. Pink Trial. Sometimes I think that it's better to never ask why. Dentro la Zap Records di Radio Monte Carlo, insieme a Zap Mangusta c'è la nostra amica Rosaria Renna. Devo leggere subito un SMS che è arrivato. Evviva Rosaria Renna, mi piede, vabbè, voleva dirmi piace, l'ha scritto sull'entusiasmo, mi piede tantissimo, l'ascoltavo anni fa su un'altra emittente, sono troppo felice di ritrovarla su Radio Monte Carlo, belle queste novità, dice Lorenza da Trento. Grazie. Ma tu Rosaria, sei d'accordo con quello che dice Pink, meglio rimpianti che rimorsi o no? Io sono d'accordo, nel senso che è meglio vivere le cose e poi magari pentirsi, dispiacersi, però aver fatto l'esperienza di vita, che è il contrario. Però in realtà nella vita sono restia a buttarmi, quindi probabilmente ho più rimpianti che rimorsi. E al volo un rimpianto che ti ricordi o un rimorso? Dai, via, buttaci lì, confessati. E andiamo sul serio, però sì. Il rimpianto è veramente una spina nel cuore, un grande dolore. Non essere tornata di più a casa. Io ho lasciato Monopoli, la Puglia, quando avevo 23 anni, per per buttarmi nel rutilante mondo dello spettacolo e pensavo di avere come tutti tanto tempo, no? Per fare le cose, per vedere le persone care, e dopo, quando non c'è stata più, ho rimpianto tantissimo non essere tornata ad aver dedicato del tempo di più a mia madre. Ecco, però Ivano Fossati dice che c'è un tempo anche che noi non riusciamo a contare, probabilmente, cioè, sì, che forse non è nella nostra dimensione. È un rimorso invece? Un rimorso, non so se è un rimorso, però se tornassi piccolo. Indietro piccolo, no, perché è tutto rimpianto, lo vedi che ho un rimpianto, non mi vengono rimorsi, no, un altro rimpianto. Beh, quando mi sono sposata, sì, ho fatto una festa per pochi, si fa per dire, perché sono pugliese, quindi 80 persone sono poche, sì, sono poche. Tornando sono indietro pochissime. La farei per 500, perché è giusto, devono venire tutti, tutto il paese. Allora organizziamola, mancano 420 persone, si rifarà prestissimo. Allora intanto noi vi diamo appuntamento sempre, no, il numero è sempre quello, non è cambiato, mi dice Steve dall'altra parte, è quello, perfetto, 342 41 41 762 per entrare nella Zap Records. Zap Records, solo su Radio Monte Carlo. Zap Records, l'etichetta che profuma di musica. Radio Monte Carlo, la radio italienne della Principauté de Monaco. Discografica di Radio Monte Carlo. Zap Record. siete naturalmente nella Zap Records di Radio Monte Carlo. Insomma, abbiamo dirazzato un po', ma quando un'amica arriva che cosa fate? Non la ospitate al meglio? Intanto sono arrivati tantissimi messaggi, SMS, WhatsApp, il numero è sempre quello 342 41 41 762. Ma sei fuori, meglio rimpianti che rimorsi. I rimorsi non fanno dormire, i rimpianti ti struggono soltanto. Daniela di Palermo dice medita. Grazie a Clementina che colora di fucsia le sue pareti quando ci ascolta. Grazie della buona vita chiunque tu sia, grazie, grazie dei complimenti, grazie anche a te seguace di Bowie. Ma c'è un destino su questa cosa, perché noi avevamo un pezzo di Bowie, Let's Dance, e tu sei una seguace, dici mettete più David Bowie, ma noi lo abbiamo spostato proprio per leggere anche il tuo SMS, e quindi lo sentirai dopo domani. Ma Bowie è nei nostri cuori, ci mancherebbe. Ciao Zap, vorrei dedicare a Serena e a tutte le donne di Radio Monte Carlo That's the way is listening to home. Mi associo se è la nostra splendida Serena di Zap Records. Mi associo se non lo è, beh, mi associo uguale, va bene. Intanto siamo arrivati al momento del Gattaci Cover. Ecco, allora vi propongo un pezzo unico, come il suo autore, come il suo significato, che probabilmente non riusciremo mai a scoprire. Il pezzo è una specie di Gioconda in versione musicale, epico, enigmatico, iconico. Si parla di un sacco di cose, di guerra, di chiesa, di eresia, di confessioni, di omosessualità, della propria mamma, di Satana, del peccato originale. Ve la facciamo ascoltare nella versione dei Praids, un gruppo R&B composto da quattro ragazze afroamericane, no, erano tre però, mi ricordo, tre con un'aggiunta in coro, che ne hanno fatto una balla trascinante per la colonna sonora del film High School High, era 20 anni fa. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, I didn't mean to make you cry. If I'm not that beat's kinda hot, you know? Too late, my time has come. Send shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody. sentiamo chi è l'autore di quest'opera magistrale. Queen è naturalmente lui. Freddie Mercury, il brano è strafamoso per la sua struttura musicale Bohemian Rhapsody, composta da 5 parti, pensate, un'introduzione corale cantata a cappella, una ballata con assolo di chitarra, un passaggio d'opera, una sezione hard rock, un'altra ballata che però chiude su una sezione piano e chitarra. E Freddie ha scritto tutto da solo, testo, melodia, prendendo appunti ovunque, su pezzi di carta, bigliettini da visita, elenchi telefonici, e il brano fu pubblicato il 31 ottobre 75. Il significato resta un puzzle senza soluzione. Il chitarrista Brian May ha detto: non lo sapremo mai, ma anche se potessi saperlo, io non lo direi. Meglio così, Kaiser Chief, All My Soul. From the top again, take it all from the top, the top, the top, the top. There's a hole in my soul that could only be filled by you again. There's a hole in my soul that could only be fixed by two. It can never be filled, never be filled. Never be filled, never be filled, never be filled by start from the top again. Take it all from the top, the top, the top, the top. There's a hole in my soul. I could only be filled by you again. There's a hole in my soul. That could only be fixed by two. Ma quanto in fretta passano queste due ore, dice Nadia. Beh, è sempre quello. Ciao Zap, saluti a me e la mia mamma Irene che ti stiamo ascoltando mentre siamo al lavoro con carta, forbice, colla e cactus. Grazie Lorenza, poi mi dirai cosa fa il cactus in tutto questo. Grazie, grazie Zap, sono la vecchia ascoltatrice di Capri. Ma come vecchia? Sei la modernissima ascoltatrice, sei la giovane, sei il fringuello di Capri, che capolavoro. Grazie per i complimenti. Per Zara Re, per la festa della donna, un attimo, qui non capisco. Vorrei ascoltare Robert Sanchez, Another Chance. Dall'altra parte del vetro non, mi hanno detto va bene, certo. Allora, però io vi ricordo che per la festa della donna, siccome la programmazione la farete anche voi e sarete protagonisti, inviateci un sms con il vostro nome, ma con la canzone che vorreste dedicare, ma anche con il nome della donna più importante della vostra vita a cui vorreste dedicarla adesso. Mentre ridò il numero 342 41 41 762, voglio parlarvi di un gruppo glorioso, è il nostro numero naturalmente quello che ho dato, un gruppo che agì tra gli anni 70 e 80. Io li ho fregati alla casa discografica concorrente, ve la ricordate? Una casetta, si chiamava Motown Records, vi dice nulla? E se vi dico The Mystics, che vi viene in mente? L'uomo ragno? No, loro originariamente si chiamavano così, The Mystics, ma poi decisero di cambiare nome, aprirono il dizionario. Lo fate mai voi una volta per vedere cosa succede? Boom! E se ci dà un indirizzo come Li Ching, sì, in cinese. E presero una parola a caso, uscì The Commodes. Ecco, ho dovuto far fatica a suggerirgli un nome un po' più orecchiabile, no? Così sono diventati i Commodores, che sono un gruppo storico della nostra Black Medley. E allora, i Commodores. RMC Black Medley. Heart in every line. Marvin, Marvin, sang of the joy and pain. He opened up our minds, and I still can hear him say, try to hold on to what dad, but now you're going. And I don't mind about the things you're gonna say, Lord. I gave all my money and my time. I know it's a shame, but I'm giving you back your name. Be back to stay. I guess I move along. I'm looking for a good time. RMZ Black Medley. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and a bottle. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? Yeah, I've paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Che questo è Amazing, l'avete ballato sicuramente una miriade di volte e vi siete sempre chiesti: ma chi lo suona? Ma chi era? Erano i Commodores e c'era un certo Lionel Richie in questo complessino che vi abbiamo proposto quest'oggi, quello di All Night Long. Ma certo, la nostra Black Medley, ricca di artisti soul, continua domani con un altro appuntamento importante. Zap Records, solo su Radio Monte Carlo. Zap Records, l'etichetta che profuma di musica. Radio Monte Carlo. Grande musica. I've seen the neon lights quanto mi piace questo pezzo dei Pretenders, Don't Get Me Wrong, tantissimo. Allora, Giorgia, hai 10 anni e ci ascolti, sei grande, anche se non sei adulta, sei lo stesso grande. 342-4141-762 per entrare in contatto con noi. Ciao Zap, a Lolly che è mia moglie vorrei dedicare domani Get Up, e cioè Sex Machine di James Brown. E il bello è che me lo chiedi per favore, ma sei meraviglioso oltre che elegante, e vedremo. Zap, sono io la donna più importante della mia vita, è andata così, e vorrei ascoltare Personal Jesus dei Depeche Mode. Poi Mandy, vorrei farla ascoltare mia moglie, grazie mille Giordano. Another Chance vorrei dedicarlo a mia nonna seconda che non c'è più. Allora noi passeremo le vostre richieste all'ufficio musica, ovviamente noi ne potremo passare una soltanto, e però le altre verranno spalmate e insieme alle altre richieste, e questo ve lo dico in modo che così potete saperlo. Another Chance, pura poesia, e il video è un capolavoro di romanticismo. Qua invece siamo in un altro momento, è quello di Venire Veniale, e quindi parliamo dei Deep Purple, altro gruppo che si contende, come posso dire, le attenzioni di tutti i collezionisti del vinile. E questo pezzo è uno dei più famosi della storia del rock. Confesserete che l'avete canticchiato almeno una volta. Tan tan tan. Ecco, perché negli anni 70 o stavi con loro, eri con i Led Zeppelin, io ero con i Led Zeppelin, ma non c'entra niente perché erano comunque un grande. È stato scritto sulle rive del lago di Ginevra questo pezzo, e dice il bassista Roger Glover, il bassista di Deep Purple, che l'abbiamo registrato lì una sera di dicembre 71, faceva un freddo bestiale, stavano guardando un concerto di Frank Zappa, e un matto, insomma, ha buttato un petardo in mezzo al concerto durante l'assolo di tastiera del brano di King Kong, ha preso fuoco tutto, la gente è scappata, si vedevano le fiamme sulle nuvole, il fumo che avvolgeva il lago, e a lui venne in mente l'idea di questo titolo, che poi incisero di notte con tutti i vicini che protestavano, con le guardie che erano arrivate. Insomma, è una storia molto complessa quella di Smoke on the Water, che faceva parte di questo brano di questo album del 72 che si chiamava Machine Head, che è molto molto atteso e ricercato da tutti i collezionisti di vinile. continuano ad arrivare sms sulle note, lo so, non dovrei farlo, ma lo devo fare, sulle note di Richie Blackmore, Deep Purple, pure io e Led Zeppelin, dice Renata, grande Zap, grazie, un po' di sano rock. Alessandra, un bacione e un abbraccio. Bene, adesso però io vorrei proporvi uno tra i brani meno conosciuti di un premio Nobel, e quindi non scherziamo, tale Robert Zimmerman. Bob Dylan, un pezzo dedicato a una donna, una che sa esattamente quello che vuole, e parla di un uomo che si sottomette al volere di questa signora molto decisa, ce n'è. Il titolo della canzone è volutamente ironico e si intitola She Belongs to Me, lei mi appartiene, ma in realtà è il cantante che appartiene alla donna descritta nel brano e non il contrario. La donna citata nella canzone, che si dice possa essere Joan Baez oppure la cantante Nico dei Velvet Underground, insomma, non appartiene a nessuno se non a se stessa, in quanto, come dice nel testo, she's nobody's child, the law can't touch her at all, e quindi lei non è la bimba di nessuno, nemmeno la legge può toccarla mai, ma lui è orgoglioso di servirla e questo basta. Chiunque sia, lei aveva un bel caratterino e per questo ha ispirato un capolavoro, Bob Dylan, She Belongs to Me. She's got everything she needs, she's an artist, she don't look back. She's got everything she needs, she's an artist, she don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing proud to steal her anything she sees. You will start out standing proud to steal her anything she sees. But you will wind up peeking through her keyhole down upon your knees. She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, she's got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all. Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She wears an Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector, you are a walking antique. Bow down to her on Sunday, salute her when her birthday comes. Sunday, salute her when her birthday comes. For Halloween, buy her a trumpet, and for Christmas, get her a drum. Zap Records, solo su Radio Monte Carlo. Zap Records, l'etichetta che ti si appiccica addosso.